Il vocabolo scandalo si trova quasi 40 volte nella Bibbia. Esso si trova sia come sostantivo sia come verbo. Il sostantivo indica lo scandalo come occasione di peccato, seduzione all'apostasia e all'incredulità, quindi come ciò che urta e indigna, solleva contrarietà o impedimento alla fede. In modo analogo, il verbo significa portare, sedurre al peccato, dare scandalo, irritare, indignare, sviare, suscitare contrarietà. Al passivo il significato è prendere scandalo, scandalizzarsi, essere sviati. In entrambi i casi si tratta di una minaccia che incombe sulla fede, sia questa già matura o solo in germe. Questi aspetti li troveremo nel corso delle nostre riflessioni. Poiché lo scandalo è qualcosa di negativo, fanno riflettere le parole che Gesù ha detto in merito. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?» E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio riceve me. Guai al mondo per gli scandali. Perché è necessario che avvengano gli scandali? Ma guai a quell'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Parimenti, se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita avendo un occhio, solo che, avendone due, esser gettato nella Geenna, del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro vedono continuamente nei cieli la faccia del Padre mio, che è nei cieli. Poiché il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto, Matteo 18:1-11. Come sempre, in ogni occasione della vita, Gesù dava degli insegnamenti ai suoi discepoli. Proprio in occasione di un argomento sulla reputazione, Gesù prende come esempio un piccolo fanciullo per parlare poi degli scandali. Gesù non ha addolcito la pillola, è necessario che avvengano gli scandali. Il Figlio di Dio non ha detto che è giusto che avvengano gli scandali, perché ciò che è sbagliato è sempre ingiusto, ma ha messo in evidenza che è opportuno o necessario che nella vita vi siano degli scandali. Nessuno di noi avrebbe osato dire questo. Tutti desideriamo che la vita scorra senza problemi, senza intralci, senza occasioni di cadere. Ma questo non è realistico né opportuno. Non è realistico perché vivere comporta incontrare difficoltà e ostacoli, non è opportuno, perché non si avrebbe occasione di dimostrare la nostra volontà. Se non ho possibilità di scelta, come posso dimostrare il mio proponimento? Se non ho occasione di peccato, se non sono sedotto dall'apostasia, dall'incredulità, da ciò che urta, che indigna o solleva contrarietà, come posso dimostrare la mia fede? È opportuno quindi che i figli di Dio abbiano contrarietà per insegnare loro a combattere per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Se è vero che se si vuole rendere difficile la vita ai nostri figli occorre rendergliela facile, è pure vero che se vogliamo dei credenti deboli, invertebrati, senza forti convinzioni, dobbiamo impedire loro di trovare ostacoli nella fede. Questo aspetto dimostra perché dove la Chiesa è perseguitata, dove è costretta a sopravvivere, essa è più forte, più coraggiosa, più ardita nel testimoniare. Il pericolo della Chiesa non sta nell'opposizione, ma nell'essere assecondata dal mondo. In questo clima di armonia, di intesa tra il mondo e la Chiesa, com'è possibile riconoscere i veri figli di Dio? Gesù, raccontando la parabola del seminatore, disse che quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione, a causa della parola, ne è subito scandalizzato. Ecco un uomo che ha trovato l'impedimento alla fede, che è stato sviato nonostante il suo perbenismo e la sua approvazione al Vangelo, eppure, alla fine ne è stato scandalizzato. Ha inciampato inesorabilmente, senza più rialzarsi. Colpa di chi? Di nessuno, perché non ha fatto altro che rivelare ciò che aveva nel cuore. Chi predica l'Evangelo deve essere pronto a vedere anime pentirsi e andare a Cristo, ma anche a vedere anime che si scandalizzano. Gesù ha parlato molto forte in merito agli scandali provocati ai bambini. Nel termine bambini possiamo ravvisare sia i piccoli fanciulli, sia coloro che sono da poco diventati figli di Dio mediante un atto di fede in Cristo, sia coloro che non sono cresciuti nella fede. E, in questo contesto che Gesù disse di tagliarsi la mano o togliere un occhio in caso di peccato, non credo che Gesù volesse intendere che ogni volta che pecchiamo dobbiamo togliere l'organo colpevole, perché tutti dovremmo essere senza lingua, senza orecchi, senza occhi, senza arti e senza cervello. Non credo neppure che il comandamento di Gesù sia solo nel senso spirituale. È probabile che Gesù, nel dichiarare grave il peccato dello scandalo, abbia detto che è meglio rimanere senza l'organo colpevole piuttosto che essere motivo di uno scandalo che porta alla perdizione. E questo scandalo così grave è ravvisabile nel dare cattivo esempio ai piccoli fanciulli. Nel Vangelo di Luca, sempre in merito allo scandalo dei fanciulli, Gesù ha detto qualcosa di più. Ora egli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Luca 17, 1 a 2. Secondo Gesù, gli scandali non sono solo necessari, ma è impossibile che non avvengano. Con questo, non sono scusabili coloro che li provocano, ma meritano una dura condanna. Essere buttati in mare con una macina al collo. Se prendiamo sul serio ciò che Gesù ha detto, se non allegorizziamo ogni suo discorso, in questa immagine della macina al collo è implicita la pena di morte. Ma domandiamoci, perché è impossibile per Gesù che non avvengano gli scandali? Che cosa è che rende difficile la vita? Cosa è che urta, che indigna, che solleva contrarietà? Sono gli uomini? È mondo? Certamente anche questo, ma vi è qualcosa, anzi qualcuno di più grande, che è in grado di scandalizzare più di ogni altra persona o cosa, qualcuno che non te lo aspetti proprio per le sue caratteristiche d'amore, qualcuno che scandalizza ancora di più per il fatto che non sei preparato a pensare che proprio lui possa scandalizzare. Questo qualcuno è Gesù Cristo, Dio stesso. In una società dove viene messo enfasi solo sull'amore di Dio e di Gesù Cristo, è più che mai opportuno considerare un aspetto di Gesù che non vorremmo vedere ma che non possiamo ignorare, per amore della verità. Quando Gesù nacque, Simeone, guidato dallo Spirito Santo, rivoltosi a Maria, disse: «Ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele, e per essere segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Luca 2, 34-35. Nel suo essere Gesù è nato come un disturbo. E sì, il mezzo di salvezza, ma è anche uno strumento di caduta, di scandalo, affinché mostrasse chi veramente amava Dio sopra ad ogni cosa, condizione questa per accedere al cielo. Gesù non è uno scandalo, non è colui che seduce al peccato, che svia dalla verità, perché lui è la giustizia e la verità. Ma il suo messaggio e la sua persona costringono i decisi e gli indecisi, forti e i deboli, a prendere posizione. E per questo che i religiosi, i suoi concittadini, i suoi familiari, i suoi discepoli, nella sera in cui fu tradito, si scandalizzarono. Dopo la resurrezione di Gesù, Pietro scrisse nella sua prima lettera: nella scrittura si legge: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li fa cadere. 1 Pietro 2:6. La persona di Gesù e il suo messaggio sono noti a tutto il mondo come la pietra angolare o la pietra cinciampo in ogni cultura. La sua resurrezione è presente come la roccia sulla quale porre il piede della fede o la roccia sulla quale chiunque cadrà si sfracellerà ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Luca 20 e 28. Il messaggio e la persona di Cristo crocifisso è un messaggio di scandalo per tutti, sia per i giudei che per i greci. Per i giudei è pazzia, perché Dio non può assumere un corpo umano. Per i greci è follia, perché l'uomo non può essere Dio. Dopo 2000 anni il messaggio del Vangelo per essere tale deve mantenere questa principale caratteristica dello scandalo. Oggi Gesù è lo scandalo delle religioni perché si propone come la sola verità, come l'unica risposta al peccato dell'uomo. Oggi Gesù è lo scandalo dei filosofi perché dichiara la loro sapienza stoltezza. Oggi Gesù è il mio scandalo se non credo che Lui sia la mia sapienza, il mio tesoro, la mia giustizia, la mia salvezza, il mio tutto. Gesù disse, «Beato è colui che non si scandalizza di me». Luca 7, 23. Non vi è beatitudine più grande di questa. Novembre 2004. Ellero.